non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. Non è nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti ad un bicchiere. Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. Ed io faccio l'amore pensando a te. Ma bella come sei, non è nel tuo stile. Col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile. Non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia letto ma il fiume no. Qualcuno canta ancora ma sta morendo. Ed io faccio l'amore pensando a te. E tu cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. Ed io faccio l'amore pensando a te. E tu cosa mi dai?